con quanto avvenuto in precedenza con le leggi, con le prassi precedenti, eppure siamo consapevoli che siamo su una china che ha subito una accelerazione. Serviva quindi un riaggiornamento di un contesto iper sfaccettato, iper complesso, iper contraddittorio, come può essere la riflessione sulle migrazioni. Uno dei nodi su cui oggi, per tutto il giorno in realtà, ragioneremo non sarà solo come il potere massacra le persone, ma sarà anche sulle resistenze. Questo ci sembrava anche opportuno dirlo in sede introduttiva. Il contesto rispetto alle migrazioni, le resistenze sono tantissime, sono sfaccettate, sono dislocate su tutto il territorio, spesso sono frammentate, ed è questa una delle complessità di questa lente attraverso cui guardiamo il tema del decoro e della repressione, e ovviamente sono complesse. Tuttavia, parlare di migrazioni in una tre giorni che si intitola Una decorosa repressione, giusto per ricollegare poi ai giorni precedenti, ci fa parlare, entro un po' nel merito della tavola di oggi, ci fa parlare immediatamente di quello che è lo sfruttamento, molto banalmente. Il fatto che questa decorosa repressione non solo annichilisce, non solo tenta di produrre soggetti nuovi, decorosi, ma crea profitto ai danni di persone che vengono sfruttate. Quindi mentre noi mangiamo il nostro toast gourmet in un posto bellissimo e viviamo un'esperienza fantastica, in realtà quel toast gourmet è stato probabilmente fatto con cibo raccolto da qualcuno l'ha portato in questo determinato posto in cui stiamo felicemente mangiando il nostro toast, e non solo, probabilmente le scritte sui muri sono state anche cancellate per rendere molto più bello il posto in cui stiamo vivendo. Stiamo parlando di tutta una serie di mansioni che nel lavoro migrante ritornano spesso. Mi soffermo solo sull'ultima sfaccettatura, quella delle scritte sui muri, perché una delle cose, delle norme introdotte dal decreto, dalla legge Orlando Minniti, è il fatto che è suggerito ai richiedenti asilo di lavorare gratuitamente. Si parla di lavoro volontario, ma è un ambito in cui la volontarietà e la coercizione non hanno un limite chiaro fra di loro, e nella presentazione di questo tavolo abbiamo trovato un bando pubblicato a Bologna nel 2016 rivolto alle cooperative, in cui si invitavano le cooperative a far lavorare gratuitamente dei richiedenti asilo, dei e delle richiedenti asilo. Gli ambiti erano quelli del decoro urbano, il verde pubblico e chiaramente la ristorazione, che quindi si è riempito di persone che lavorano gratuitamente oppure lavorano 80 ore al mese per 200 euro con dei contratti di tirocinio. Rispetto al lavoro, che è il grande tema di questa mattinata, sappiamo che lo scenario complesso parla di sfruttamento, è uno sfruttamento tanto maggiore quanto tanto più si concentra sulle linee di razza e genere. Questo penso che emergerà con forza nel corso degli interventi. Rispetto a questo tipo di sfruttamento le resistenze sono tantissime, ma vivono un momento di difficoltà sempre crescente, perché è crescente la ricattabilità, la manodopera con cui sostituire chi è indecoroso, chi si ribella, è sempre numerosa. Non solo, questa resistenza è sempre più difficilmente organizzabile, perché le strutture che riescono a costruire le resistenze sono anche queste state colpite, vengono colpite costantemente. Nel corso della giornata probabilmente verrà fuori che il movimento No Border, il movimento di solidarietà rispetto all'attraverso dei confini, nel corso degli ultimi tre anni, anche di più, ha subito delle mazzate non, non indifferenti, rendendo anche elemento che poi ha reso anche difficile il lavoro di connessione fra lotte diverse. Rispetto a questo, quindi ci chiediamo come, se è possibile invece tornare a connettere i vari fili, quando succede e quando succede, insomma, magari soffermarsi anche sul come, sulla modalità con cui queste connessioni sono possibili. Ne parliamo con Parterre di tutto rispetto. Abbiamo qui Irene e Simona di Campagna di Lotta, che da anni organizzano le lotte con il bracciantato agricolo. Ne parliamo con Nabil di Sicova, fresco, freschissimo di manifestazione da ieri. E ne parliamo con Enrico Arrigo, filosofo del diritto, attivista in diversi ambiti. Procederei con quest'ordine d'accordo e grazie ancora per essere qui. Grazie a voi, si sente? Per l'occasione, appunto, noi cercheremo di tracciare, ci siamo divisi l'intervento Simone, io cercherò di tracciare una genealogia poi di quelle che sono le dinamiche di sfruttamento e criminalizzazione negli ambiti in cui appunto lottiamo e sosteniamo l'auto-organizzazione di lavoratori e lavoratrici delle campagne, che sono anche migranti. I temi sono tantissimi, non so quanto riuscirò ad essere coerente, quindi vi chiedo perdono fin dall'inizio. Intanto partirei appunto ragionando sul fatto, collegandoci anche un po' ai discorsi fatti ieri sulla città e a quello che dicevi tu rispetto al cibo e al branding del cibo, dicendo che quello che noi vediamo all'opera nei distretti agroindustriali italiani è il frutto di una riorganizzazione della produzione che ha radici, direi, a partire dagli anni 80, quindi una riorganizzazione, diciamo, in chiave logistica che sempre più determina il monopolio dell'intera filiera agroindustriale da parte della grande distribuzione organizzata e l'allungamento progressivo quindi delle filiere dell'agroindustria. All'interno di questi processi riorganizzativi, ovviamente, un elemento centrale occupa l'esternalizzazione della forza lavoro, dell'approvvigionamento, della riproduzione della forza lavoro, quindi una sostituzione della forza lavoro da italiana, diciamo, a migrante. All'interno di questi processi di sostituzione possiamo identificare diverse ondate, no? Quindi in un primo momento, poi ovviamente, diciamo, ci sono differenze a livello di regioni e di distretti, non in tutti i distretti la forza lavoro ha le stesse provenienze, però insomma in un primo momento erano soprattutto nordafricani, lavoratori albanesi, nordafricani nelle campagne, poi lavoratori dell'Africa occidentale, quindi a partire dall'allargamento dell'Unione Europea ad est, no? Insomma, nei primi anni 2000 fino al 2007, una nuova sostituzione con lavoratori e lavoratrici, soprattutto rumeni. Sottolineerei questo aspetto, cioè le statistiche, per quanto, diciamo, vadano prese con le pinze, comunque ci dicono che in Italia la nazionalità più rappresentata tra, appunto, chi lavora nelle campagne è quella rumena, cioè parliamo di centinaia di migliaia di lavoratori e lavoratrici che sono i veri stagionali, cioè sono persone che, almeno per quanto riguarda alcune produzioni, appunto le produzioni più stagionali, pensiamo al pomodoro dall'industria, pensiamo agli agrumi, sono persone che, appunto, si spostano annualmente e ritornano annualmente nei loro paesi di origine, cosa che ovviamente non è possibile per chi viene dall'Africa o dall'Asia. E quindi ovviamente questi processi hanno portato anche a un abbassamento del costo della forza lavoro, abbassamento del costo della forza lavoro che in cui ha avuto un ruolo fondamentale la disciplina delle migrazioni, no? Il controllo delle migrazioni, le leggi a partire dalla turco-napolitana per passare alla Bossi-Fini, pensando poi diciamo alle recrudescenze arrivate già con il pacchetto sicurezza del 2009 fino ad arrivare agli ultimi sviluppi. Quindi ovviamente la disciplina dell'immigrazione è una disciplina fondata su forme di razzializzazione, no? Di razzismo istituzionale e quindi anche di criminalizzazione, no? Per ritornare a uno dei temi centrali del dibattito, credo. Criminalizzazione che si articola attraverso diversi processi e dispositivi, ovviamente uno dei primi e più evidenti è quello dell'istituzione dei centri di detenzione, che hanno cambiato nome dal 98, da quando sono stati inizialmente istituiti, ma che fondamentalmente non cambiano nella sostanza, a parte insomma qualche particolare, insomma. Non so se poi Enrica su questo farà delle specifiche. Comunque appunto pensiamo ai CPTC e CPR come si chiamano oggi, pensiamo però ovviamente anche al legame tra permesso di soggiorno e contratto di lavoro, che di fatto istituisce, no, il reato di disoccupazione, nel senso che nel momento in cui una persona, un cittadino, una cittadina extracomunitaria perde il lavoro, diventa automaticamente illegale, no? Quindi riportandoci poi a delle dinamiche che, se vogliamo, erano già in piedi in altre epoche storiche, no? Quindi ci sono anche delle continuità con periodi passati, no? Anche rispetto poi al fatto che ovviamente ci sono delle grosse differenze, però una cosa che mi sembra interessante sottolineare è come per esempio il bracciantato, diciamo, super precario che lavorava nell'agricoltura capitalista tra 800 e 900 era essenzialmente escluso dai diritti politici e civili, no? Quindi ritorniamo a quel tipo di dinamiche con le leggi sull'immigrazione e ovviamente appunto questi processi anche di esternalizzazione dell'aspetto riproduttivo, cioè che cosa voglio dire? Voglio dire che essenzialmente la cura, il lavoro di cura che permette ai lavoratori e alle lavoratrici di vivere e di sopravvivere non viene svolto in Italia, bensì nei loro paesi di origine. I costi che riguardano appunto la cura dei figli, quindi dei futuri lavoratori, l'istruzione, ma anche il periodo post lavorativo, quindi il pensionamento in qualche modo, non sono più a carico dello Stato in cui le persone si trovano a lavorare, ma appunto vengono esternalizzati non soltanto ai paesi di origine ma anche in loco, no? Proprio perché le persone lavorano senza garanzie contrattuali, no? Le garanzie contrattuali sono sulla carta anche quando i lavoratori e le lavoratrici hanno un pezzo di carta in mano, un contratto, no? E quindi si creano appunto quelle concentrazioni abitative che vengono variamente definite ghetti, baraccopoli, ma anche le forme, diciamo, più istituzionalizzate, che sono tendopoli e campi container, essenzialmente sono anche dei luoghi che permettono ai lavoratori diciamo, di sopperire alle loro esigenze, diciamo, di base, quindi quella di avere un tetto sopra la testa, ma anche quella di avere un pasto caldo che viene fornito spesso e volentieri da donne, anche loro migranti, donne che si occupano anche di fornire servizi di tipo sessuale, anche perché appunto qui parliamo, diciamo, di fenomeni che determinano una segregazione su base etnicizzata e razzializzata in varie diverse forme. Ora appunto, cioè, ci sono ghetti o campi in cui vivono per esempio lavoratori solo ghanesi o lavoratori solo rom, bulgari, ma ci sono campi e baraccopoli o ghetti in cui vivono lavoratori e lavoratrici di diversi paesi dell'Africa occidentale, quindi in cui, diciamo, la dimensione di discriminazione è quella della razza e non della nazionalità o dell'etnia, tra virgolette, come nel caso rom. Oddio, poi tra etnia e razza, insomma, ci sono, diciamo, il confine è labile. E ci sono poi, sì, ovviamente, molteplici, diciamo, tipologie abitative, anche di organizzazione, diciamo, del lavoro di cura, per cui appunto, mentre per i lavoratori africani, diciamo, si tratta appunto in prevalenza di uomini che lavorano nelle campagne e di donne che svolgono servizi riproduttivi a pagamento, nel caso dei lavoratori comunitari, cioè quindi rumeni, bulgari, in minor misura polacchi, si tratta di persone che vivono in contesti molto più dispersi, quindi mentre gli africani vivono in grossi, di solito in grosse concentrazioni, i lavoratori comunitari hanno appunto una vivono in luoghi spesso fatiscenti, ma in numeri più piccoli, spesso con gli intermediari che si occupano di organizzare l'intera, diciamo, loro esperienza migratoria stagionale, con forme di controllo anche molto brutale, molto, molto violento in molti casi, forse più brutale, sicuramente più brutale e più violento nel caso appunto dei lavoratori e delle lavoratrici comunitarie che non dei lavoratori e delle lavoratrici africane. E quindi anche qui, diciamo, un po' sfatato il mito che diciamo, il lavoratore comunitario viva delle condizioni di lavoro migliori, perché non è assolutamente così, e sono proprio perché vivono molto più sparpagliati e sono molto più controllati, sono anche molto più difficili da intercettare e da raggiungere. Questo è un grosso problema anche nel nostro percorso di lotta, e hanno una, diciamo, una disponibilità minore forse anche all'organizzazione per molteplici ragioni che forse non ho tempo di svolgere ora, ma che casomai su cui si può ragionare dopo. E, però in quel caso si tratta sia di donne che di uomini che lavorano nelle campagne, e quindi diciamo, in quel caso le donne subiscono forme di sfruttamento, diciamo, multiple, non solo perché spesso si fanno carico loro stesse di tutte quelle mansioni di cura anche per i lavoratori maschi, ma perché a loro viene, cioè perché sono oggetto di forme, diciamo, di violenza di natura sessuale più o meno evidenti. Poi è ovvio appunto che la molestia sessuale sul luogo di lavoro è qualcosa che viene vissuta da una grande maggioranza di donne in tutti i posti di lavoro, no? Quindi queste sono uscite anche statistiche dell'Istat molto recentemente che mettono benissimo in evidenza questa dimensione. Ancora una volta ci sono continuità con quello che vivevano e tuttora vivono anche le lavoratrici italiane che svolgono mansioni braccianti, no? Le lotte anche delle lavoratrici italiane nell'agricoltura hanno avuto un peso fondamentale anche nella storia della lotta di classe in Italia, e emergeva benissimo in queste storie proprio come, diciamo, gli intermediari, variamente chiamati caporali, sovrastanti o quello che si vuole, oppure i padroni stessi, diciamo, spesso pretendevano da loro anche servizi di natura sessuale, ovviamente tra l'altro non retribuiti. Quindi, insomma, sono temi complessissimi, sto andando molto veloce. Rispetto al tema della criminalizzazione, metterei in luce un altro aspetto, che è quello delle leggi sul caporalato, che in qualche modo, tra l'altro, diciamo, a livello discorsivo ricalcano la criminalizzazione degli scafisti, no? Cioè di coloro che facilitano le migrazioni sulla rotta libica, no? Quindi a partire dal fatto che ci sono state anche momenti di lotta molto importanti di cui sono stati protagonisti i lavoratori delle campagne, la risposta istituzionale a tutto questo è stata ovviamente di natura repressiva e criminale, criminalizzante, ma ovviamente con una prospettiva assolutamente limitata al solo caporale, al solo intermediario, no? Cioè, quindi senza tirare in ballo chi poi in realtà è responsabile ultimo, cioè quindi chi gestisce la filiera, perché poi tra l'altro un'altra cosa forse importante per chiarire quello di cui stiamo parlando è il fatto che il proprietario della terra in cui poi si lavora spesso e volentieri non controlla per nulla tutto il processo produttivo, nel senso che è la grande distribuzione stessa o il commerciante, quindi l'intermediario con la grande distribuzione che decide e determina che cosa si deve coltivare, in quali quantità, anche a volte che si occupa direttamente del reclutamento della manodopera e della messa al lavoro, e quindi che di fatto, cioè, anche la criminalizzazione dell'azienda, no? Cioè quello che poi è stato il percorso di queste leggi sul caporalato ha portato a una rivisitazione, no? Recentemente della legge che rende il caporalato in agricoltura illegale, no? Come se tra l'altro fosse qualcosa di distinto dall'intermediazione che può svolgere un'agenzia interinale o una cooperativa, no? Quindi anche qui, come dire, cioè, rendere eccezionale questi contesti, rendere eccezionali queste forme di sfruttamento come se non fossero invece, diciamo, una delle forme magari più estreme però di processi che riguardano tutto il lavoro. E quindi diciamo, non penso che il decreto Minniti di per sé abbia avuto questo di cui chiacchieravamo prima, non credo che il decreto Minniti Orlando di per sé abbia avuto delle ripercussioni sulle dinamiche di sfruttamento in maniera diretta, cioè ce l'hanno le leggi sull'immigrazione in generale, no? Perché appunto rendono la manodopera ricattabile in mille un modo, rendono le persone precarie, ma sicuramente appunto le leggi sul caporalato credo io avranno l'effetto, ma questo si vedrà nel lungo periodo, di favorire quel processo di concentrazione della ricchezza nelle filiere agroindustriali, proprio perché, diciamo, i piccoli proprietari di azienda sempre di più si trovano, diciamo, strangolati all'interno delle filiere, e io credo che appunto anche la legge sul caporalato avrà degli effetti in questo senso, no? Cioè, diciamo, anche perché si tratta di economie di scala, no? Chi poi si può permettere, diciamo, una regolarizzazione anche soltanto formale della manodopera sono le grosse aziende, i grossi consorzi. che di fatto, cioè, appunto, poi già controllano la produzione. Quello che forse l'altro aspetto, e poi concludo, che mi sembra importante restituire è il fatto che i ghetti e i campi di lavoro, dove c'è, cioè, diciamo, il limite tra una baraccopoli e una tendopoli è assolutamente labile, no? Però si stanno espandendo e si stanno, come dire, sempre di più incancrenendo nei territori a vocazione agroindustriale, anche se, diciamo, cioè, è dagli anni Ottanta che esistono appunto i ghetti in diverse parti d'Italia, ma c'è stata una esplosione di questi spazi e di queste forme abitative a partire dal 2012, quindi a partire dal momento in cui cambiano le rotte migratorie e le politiche migratorie in Italia, cioè da quando il governo italiano sospende i flussi annuali per lavoro, cioè quelle quote per cui ogni anno venivano, diciamo, assunti lavoratori di specifiche nazionalità o anche non, però insomma era possibile fino al 2012 per i lavoratori non comunitari avere un permesso per lavoro a partire da queste quote annuali. Tutto questo viene sospeso nel 2012, il 2012 è anche l'ultimo anno in cui il governo vara una sanatoria, tra l'altro una sanatoria farsa, però ecco, quella modalità di controllo delle migrazioni viene meno, inizia appunto quindi ad intensificarsi la rotta libica anche a partire dalle, diciamo, crisi nordafricane e da altri processi che interessano i vari paesi di origine di lavoratori e lavoratrici, cambia anche quindi la tratta delle donne nigeriane, per esempio, cioè le rotte che portano le donne nigeriane ad arrivare in Italia attraverso sempre il debito, ma con modalità diverse, scusate, vado molto veloce. E quindi, cioè, i ghetti non sono soltanto, diciamo, i dormitori dei lavoratori dell'agroindustria, ma sono anche, diciamo, dei luoghi più in generale, cioè sono dei luoghi di rifugio lungo delle rotte migratorie e sono il risultato di queste nuove politiche che fondano, diciamo, il diritto a restare su questo paradigma umanitario totalmente, diciamo, votato all'arbitrarietà, oltre che ovviamente allo sfruttamento anche diciamo, della condizione di migranti in quanto tale, per cui c'è il centro d'accoglienza, ovviamente un grande business per diciamo, imprenditori di varia natura. E quindi, ecco, appunto, cioè, esiste una continuità, diciamo, tra il regime dell'accoglienza e poi la disponibilità di forza lavoro a bassissimo costo per i distretti agroindustriali italiani. Mi fermo qui, perdonatemi se sono stata un po' confusionaria, poi casomai nel dibattito approfondiremo. Grazie. Io prendo solo qualche minuto per parlare più delle pratiche, dell'aspetto di resistenza, insomma, su cui operiamo come rete Campagnellotta. Mi riaggancio sull'ultimo passaggio di Irene, sul fatto che effettivamente il processo di costituzione dei ghetti, di segregazione, insomma, di allontanamento è il risultato di questa confluenza tra trasformazione della filiera agroindustriale e politiche migratorie razziste e di criminalizzazione. Allo stesso tempo è anche vero che questi posti sono dei posti di tra virgolette protezione per delle persone che non hanno il permesso di soggiorno, si trovano in una situazione giuridica instabile e hanno dei problemi di soldi. E all'interno di questi posti ci sono delle pratiche che sono di fatto di auto-organizzazione. Questo non per dire che non ci sono rapporti di potere all'interno di questi spazi, ma che di fatto lo Stato fa fatica a controllarli, a sapere cosa succede dentro. E questo è era ed è ancora per noi un punto di partenza per effettivamente poter entrare in contatto con queste persone e rinforzare delle pratiche di auto-organizzazione che si trasformino anche in una lotta. Questa è anche un po' la storia, la genesi della rete Campagnellotta, che nasce di fatto con la rivolta di Rosarno nel 2010 e lo sciopero di Nardò 2011, dove ci si è resi conto effettivamente che questa concentrazione qua di lavoratori e lavoratrici delle campagne poteva anche essere una risorsa in termini conflittuali. Quindi quello che stiamo provando a fare ormai da anni è prima di tutto rafforzare le pratiche di autogestione, soprattutto in momenti assembleari, all'interno degli accampamenti, e anche la questione della frammentazione di cui parlavi te, fare il legame tra i vari accampamenti e tra le varie lotte che nascono in maniera più o meno spontanea in tutti i vari accampamenti. Questo è molto importante perché anche solo stiamo parlando soprattutto in questo momento di Foggia e Rosarno, c'è una grande dispersione anche degli accampamenti, come diceva Irene, su base etnicizzata, tra virgolette, sicuramente razzializzata, e c'è una difficoltà anche di messa in comunicazione di queste persone che sono effettivamente lontane da qualsiasi tipo di centro, di centralità, dai trasporti, da tutto. Quindi un'opera di messa in comunicazione che è fondamentale all'interno di ogni zona, ogni distretto agroindustriale, ma anche, quello sarebbe poi un obiettivo più, più ottimistico, ma anche all'interno della penisola, nel senso che noi appunto in questo momento siamo soprattutto su Rosarno e Foggia, ma pensiamo che metodo simile e pratiche simili potrebbero essere esportate altrove, in altre situazioni in cui ci sono delle condizioni molto simili che sono dietro casa, non è sempre il sud Italia come viene raccontato, ma ad esempio potrebbe essere benissimo la campagna romagnola. Per il momento ancora non c'è, ma chi lo sa, contattateci. Quindi dicevo, prima di tutto delle pratiche di rafforzamento dell'auto-organizzazione che passa da momenti assembleari e messe in comunicazione. Due, uno sportello di sostegno legale che resta fondamentale anche in un'ottica che è la nostra di abbattimento delle politiche migratorie e di critica radicale al sistema d'accoglienza e d'asilo, che in questo momento secondo noi è comunque uno strumento di legalizzazione e non il contrario, e quando non è di legalizzazione è di controllo paternalista e comunque disciplinare delle persone migranti. Quindi uno sportello che serve comunque per entrare in contatto con queste persone, costruire un rapporto di fiducia e provare anche a partire da delle rivendicazioni di documenti individuali ad allargare questa cosa qua, con tutte le difficoltà del caso, perché effettivamente nel momento in cui entriamo nell'obbligo di domanda d'asilo diventa più difficile avanzare delle richieste di regolarizzazione collettiva, e quindi bisogna per forza passare dalle commissioni e provare forse ad allargare le maglie della commissione. È tutto molto difficile, ma pensiamo che comunque sia indispensabile fare questo passaggio qua, con l'obiettivo appunto, e si passa alle rivendicazioni, effettivamente di ottenimento di documenti per tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici. Esatto, cioè nel senso che non ce lo siamo inventati, quando dicevo processo assembleare è perché effettivamente è il primo punto, come suggerisce Irene, è il primo punto che viene messo in avanti. La questione dei documenti è fondamentale. Secondo punto è una rivendicazione di case, trasporti e servizi, e sottolineo case perché anche lì c'è un punto centrale: la richiesta è case e non ghetti, ma neanche centri d'accoglienza, cioè semplicemente case normali, tra virgolette. C'è una richiesta forte, di una rivendicazione forte di ordinarietà, semplicemente perché ci sono stati dei dispositivi, esistono ancora dei dispositivi di alloggio che sono sempre straordinari per queste persone, che sia il ghetto o che sia il centro d'accoglienza. La nostra posizione, appunto, che ricalca quella di, dei lavoratori e delle lavoratrici delle campagne, è appunto che l'unico modo per uscirne non è inventare dei nuovi centri per queste persone, ma appunto poter ritornare o andare sostanzialmente a prendersi delle case come le persone di nazionalità italiana. Quindi un'uscita dalla straordinarietà, tra virgolette. E l'altro passaggio che è stato fatto e che proviamo a continuare a fare per avere, ottenere queste rivendicazioni qua, sono dei momenti di piazza, che ce ne sono stati una serie, non funzionano sempre, chiaramente è tutto nella costruzione di un rapporto di forza con la prefettura, con la questura e a un certo punto anche con il Ministero degli Interni a livello nazionale, come si è provato a fare nel novembre scorso. Sì. E, 2016. E il problema è che nella fase contemporanea, cioè nella fase attuale, effettivamente c'è una repressione che è accresciuta, una repressione che tocca sempre i lavoratori e le lavoratrici della campagna, perché rientrano dentro questo processo di criminalizzazione. Quindi c'è stato un processo di sgomberi degli accampamenti l'anno scorso, che ha portato appunto a un'ulteriore frammentazione di queste zone, appunto, dove si provava a costruire l'auto-organizzazione in favore chiaramente di campi istituzionalizzati, come dice Irene. È praticamente la stessa cosa, con la differenza che lì lo Stato li controlla, sa quanti sono, e quindi appunto riesce a... cioè sì, chiaro. Poi tra l'altro c'è anche un processo di ricreazione dei ghetti, perché sono tutte manovre statali che non funzionano mai completamente. E c'è anche però una fase di repressione che colpisce noi fondamentalmente, e per cui noi consideriamo che resti fondamentale, di fronte alla repressione, l'arma della solidarietà, e di mettere in comunicazione le lotte, di continuare a parlarsi anche quando si è dispersi nella penisola in questi posti un po' sfigati. E chiudo su questo appello. Tutti, scusate, prima la cosa. Intervengo solo sul discorso dei Minniti, che tanti compagni dicono solo il discorso dei Minniti che guarda i migrazioni. Io non mi vedo più bravo, non mi vedo tanti d'accordo su questo. Diciamo, se l'immigrazione è stata peggiorata, c'è una pasta che ci ha possedito, non serve per niente. Ci ha Minniti, ve lo giudiziato, ha fatto veloci, da una maniera più veloce, che usano gli stessi termini che sono in Italia attivi dal 2002, se non mi sbaglio. Cioè, Minniti può decidere più su momenti di lotta, quanti fa Picchetto, come è stato Altureri a Novara, come è stata Piacenza, come è stato ieri l'identificazione di 97 Pullman, per capire un attimo che non è guardato solo che sono migrato che sta dentro, ma proprio controllato il video e i documenti. Abbiamo fatto una rispulsatura per andare via, perché no, non facciamo il corteo, più o meno. La tensione delle identificazioni è più che vieni colpito, che usano Minniti più quanti tu va a fare la lotta nella piazza. Vedi minaccia a te, sono Minniti, ma sono migrazioni così semplici, più usano questi fini che di Minniti. Per quella che la regolarità, tra virgolette, che guarda il discorso dei documenti, Minniti vengono usati sull'invitazione del lavoro gratuito, che gratuito non c'è. Io l'ho visto a Prato, 6 mesi fa, che le mettono ai lavoratori o l'ospiti delle spa o energia, come si chiama, il centro di accoglienza, che vanno a lavorare nei tessili gratis o con 400 euro. visto proprio 6 mesi fa, se non mi sbaglio. Sono discorso di chi usano oggi, tra virgolette, non so che nessuno che interessa se quella roba qua, sulla campagna elettorale che l'immigrazione che è l'unica problema che c'è in Italia. Beh. Da quanti ho prima di venire in Italia so benissimo che c'è 50.000 problemi qua. Quello è stato uno dei motivi che abbiamo cacciato qualcuno della campagna elettorale e del Cortello. È stato cacciato. Che hanno scritto l'articolo con un marocchino e dice non mi interessa un cazzo della vostra politica. Sì, so io. Ce l'hai detto chiaro tutto. Diciamo, loro fanno la loro campagna elettorale, se vuoi fare la campagna elettorale va dalla piazza, ma tu chiama la piazza, va la tua campagna elettorale. Non vedi insultare a me come immigrato, poi vedi presente il mio contorno. No, caro mio. È stato quello il discorso con loro, che è stato veramente cacciato. Riguardo al discorso sull'agricoltura, cioè io ho letto un documento che guarda il grande distributore, che è veramente lui che decide il costo della manodopera, il costo del prodotto, da una maniera proprio. Cioè io ho letto un articolo sull'Internazionale, se non mi sbaglio, un documentario. Che l'ha scritto in Inghilterra, addirittura non è scritto in Italia. Cioè un ricercatore inglese, non è un po' di informazioni che loro decidano proprio presso, cioè un grande alimentare, che decidano che nella situazione della logistica, come un po' occupo della logistica, la situazione del lavoro peggiore nel livello contrattuale, nel livello di sfruttamenti, nei magazzini che lavorano per il grande distributore, il grande catena di supermercati. Se ricordate qualcuno di qua, Anzola, Camse, GC, tutti quelli sono lega coppia e lavorano per il supermercato, non lavorano per altri. Cioè, abbiamo trovato una situazione, differenze di trasporto normale, un corriere normale, nella catena del supermercato, distributore del supermercato, c'è un livello di truffa un po' pesante, cioè un livello di sfruttamenti. Non è solo li sfruttano nel campo, addirittura li sfruttano nella città qua. Qua, insomma, 2 passi da noi. Sono lavoro gratuito, ma non so. Cioè io per me il lavoro gratuito non esiste. Non so lavorare gratuito. Non so. I militi hanno usato tante volte nella lotta. Siamo ben resistenti un po', per fortuna che abbiamo una forza a riuscire a resistere contro quelle, avevamo a fare un presidio subito al volo, ieri hanno preso un ragazzo di non ha documenti, monta un presidio mattina, è stato lasciato. Ma Minniti veramente non vedo più, va a colpire la lotta a quanti viene organizzato, che viene a colpire il singolo immigrato che viene sfruttato per loro. Sono contento che l'immigrato viene sfruttato nel campo per garantire per loro un bel basso prezzo. Cioè un discorso troppo collegato. Lui vogliono che c'ha nel campo, viene pagato 5 euro la cassa, pomodoro, 3 euro l'arancia o 2 euro ciliegi, non deve essere organizzato, non deve essere andato alla lotta, come vede il pacchino nel magazzino. È così, ma se ti alza la testa e le veniamo con i miratini il manganello dei vari pecchetti, ma quanto tu va a darle una bastonata, tu sei criminale. No, io mi piace la bastonata, non ha scritto per me il diritto di prendere. Quella che guarda un po', scusate, ma nel dibattito se riesco di finire con voi o con i vostri. Mi chiedono se possiamo accendere il riscaldamento, il che vuol dire che ti alzo il volume anche della cassa. Accendiamo anche se fa un po' di casino. Non lo so se facciamo una pausa, no. Mi sentite? Vabbè, allora, innanzitutto grazie a Paolo e agli altri organizzatori per avermi invitata, ma grazie anche a Irene e a chi mi ha preceduto per le cose che avete detto e che comunque mi danno, abbreviano quello che dirò io, perché alcune cose sono già state dette. Quello che provo a fare è un po' una riflessione che provi a tirare di fila passando dal tavolo di questa mattina sul lavoro a quello del primo pomeriggio sulla questione del controllo e anche diciamo, guardare un po' quello che è il mio punto di vista specifico, cioè qual è la risposta che il diritto dà a questo tipo di questioni, la risposta istituzionale. Allora, ieri pensando un po' a come potevo collegarmi al discorso delle due giornate precedenti, cioè la questione del decoro e la questione delle migrazioni, non mi venivano grandi idee dal punto di vista proprio di una connessione specifica, sono andata a prendere, ho pensato di fare questo, sono andata a guardare i giornali che parlavano, il Corriere della Sera, di come rappresentava la rivolta di Rosarno nel 2010 e ve lo leggo, a Rosarno rivolta degli immigrati, distrutte auto, cassonetti, eccetera, scene di guerriglia urbana nella piana di Gioia Tauro per la rivolta di alcune centinaia di lavoratori extracomunitari impegnati in agricoltura. Andiamo a leggere sempre il Corriere della Sera dell'8 gennaio 2018, cioè adesso, e Rosarno, 8 anni dopo, nella baraccopoli degli immigrati senza acqua, elettricità né corrente, come bestie. Uomini neri si aggirano in bicicletta, digrignano i denti sulla salita. Sono tantissimi, circa 3.000, quasi tutti con regolare permesso di soggiorno. Uomini. Le donne, vivono qui anche le donne, quasi tutte vendono i loro corpi per strada. Allora, due rappresentazioni a distanza di 8 anni e da una parte abbiamo i lavoratori. Cioè c'è poco da dire, ancora si parlava in Italia di lavoratori migranti. Nel 2018 spariscono, abbiamo gli schiavi, abbiamo gli uomini neri, lasciamo perdere la connotazione evidentemente razzista degli uomini neri che digrignano i denti, cioè il Corriere della Sera, ma ormai lo sappiamo, il Corriere della Sera. Abbiamo gli schiavi e appunto gli uomini neri che ci fanno paura e le donne la cui unica rappresentazione possibile è quella di soddisfare i bisogni biologici dei maschi, cioè questa è la rappresentazione che noi troviamo. Quello che sparisce è il lavoro, spariscono i lavoratori, sparisce il capitale. Quella cosa di cui parlavamo ieri e quella cosa di cui ci parlava Irene, che sta lì, ci parlava di Dante che stanno lì, però sparisce da ogni tipo di rappresentazione pubblica. Che devo dire, ce ne interessa magari giusto di cosa dicono i giornali, però non spariscono solo dalla rappresentazione pubblica, in qualche modo questa cosa la dice, cioè dalla rappresentazione mediatica, la diceva prima Irene, spariscono anche dal diritto, spariscono dalle risposte istituzionali alla questione. Ah, mi sentite? Spariscono, dicevo, anche dal diritto, dalle risposte istituzionali alla questione. Allora, la cosiddetta crisi dei rifugiati, di cui numeri più o meno tutti abbiamo sentito parlare nei giornali, e gli arrivi dei migranti via mare, poi magari torno su quando la collochiamo temporalmente o no, appunto ha dei numeri che più o meno tutti abbiamo sentito sui giornali. Io ho provato a fare un'operazione assolutamente antiscientifica, tanto non sono una sociologa, sono una filosofa del diritto, noi filosofi sappiamo che facciamo un po' quello che ci pare e piace, e ho comparato, ho messo su due linee i numeri degli arrivi da 2011 con quelli dei decreti flussi. L'ultimo decreto flussi, ne parlava prima Irene, in Italia, che abbiamo avuto, qua ho fatto, poi evito le slide, eccetera, l'ho messo su, è l'unico grafico, è la cosa più elaborata che riuscivo a fare in termini dei numeri. L'ultimo decreto flussi che noi abbiamo avuto è stato nel 2011, 160.000 ingressi. Guardate che i famosi ingressi, l'Italia è un paese, ma non era uno dei più, che normalmente assorbiva la media di 150-180.000 lavoratori l'anno. Assorbire non vuol dire, stiamo attenti, lo sappiamo tutti, no? Che i decreti flussi riguardavano gente che era già qua, spesso, però intanto erano nella pratica una via di accesso a una forma di diritto. Tu sei regolarizzato tramite flussi, e sappiamo così. Spariscono. Questa cosa è un caso, due anni fa a guardate che nella famosa crisi dei rifugiati, cioè l'anno top che è stato il 2016, sono arrivate 180.000 persone, cioè non è che sia mai arrivata più gente. Tra l'altro questa situazione, qui lo dico anche con una vena polemica, questa situazione in Italia cambia in questi termini, lo diceva Irene, nel 2011. Cioè è lì lo spartiacque. Perché dico lo con una vena polemica? Perché oggi si tende a dare al 2015 e alla lunga estate delle migrazioni e al paradigma accordi con la Turchia, si tende a dare il momento di svolta, il paradigma di lettura del totale. Io su questa lettura non sono pienamente d'accordo. Non lo sono, ne potremmo discutere durante il dibattito, lo metto qui. Comunque, dicevo, allora, con i decreti flussi non si risponde più. Come si risponde a questa roba qua? Che sono le migrazioni, che sono un fenomeno sociale. Lì, lo inquadriamo lì. Spariscono i decreti flussi, spariscono questo genere di politiche migratorie, per quanto ambigue siano, e si risponde con il diritto penale. Cioè, la conseguenza di quella rappresentazione che noi abbiamo visto, che è la rappresentazione vittime carnefici, vittime schiavi e caporali, ma anche, guardate, vittime e carnefici dal punto di vista donne trattate e trafficanti, chiama dal punto di vista del diritto due risposte assolutamente analoghe, che sono appunto quelle della legge sul caporalato, cioè lo sfruttamento lavorativo. Quando noi in Italia parliamo di sfruttamento lavorativo, noi magari gente comune normale pensiamo che, non so, si parli di contratti di lavoro. Io mi sono seguita a Roma un po' di tavoli con il Ministero dello Sfruttamento Lavorativo, ho detto, si parla di sindacalizzazione, contratto di lavoro, paga. No, si parla di come distinguere le fattispecie, è splatter. Di come distinguere le fattispecie della tratta, riduzione schiavitù, alienazione di schiavi, tu sei dici, ma cioè, a dove sono venuta? Questo è da una parte, quindi questo tipo di risposta al diritto penale, lo stesso discorso lo potremmo fare sulla tratta, è molto complesso e qui lo evito, però è interessante perché? Perché questo schema del diritto penale cosa ci dice? Ci dice che lo sfruttamento è un problema solo quando è una condizione della libera volontà delle parti. cioè la dimensione di estrazione di plusvalore dal lavoro o dai corpi sessuati della gente, quello non è un problema, lo era forse negli anni 70, roba vecchia, insomma, dentro il Novecento. Ora è un problema solo quando si presenta in questa dimensione di corruzione di che cosa? Dello schema volontaristico del contratto. Questa è un pochino la, la risposta che abbiamo dato. Potrei citarvi le leggi 2011 prima legge caporalato, 2015 la sua modifica, peraltro questa è una cosa che ho seguito da vicino e anche lì potremmo parlarne, introduzione del reato di tratta, eccetera, eccetera. Lo smuggling sarebbe anche lì un discorso, eccetera. Quindi abbiamo una prima risposta del diritto. Un'altra risposta del diritto, secondo me, in questo schema che vi ho tracciato sì, brutalmente e che non ha nessuna base scientifica, è quello di quello che secondo me è un cambio di paradigma dal discorso tipicamente securitario, repressivo, che è quello della costruzione di categorie di rischio, ha invece un discorso diverso che è questo discorso appunto di crescente invasività da un lato dello strumento umanitario, anche in settori che prima non gli erano propri, come la gestione della forza lavoro e le altre due cose che diceva Irene su cui vengo subito dopo, razzializzazione e anche linea del genere che vanno insieme. Allora, innanzitutto chiariamoci, io sono più o meno una giurista, quando parlo di umanitario io non intendo mai qualcosa di buono, mi si rizzano i capelli, l'umanitario ha il diritto di guerra, cioè ha quella genesi lì. L'umanitario è quel diritto che serve a salvare le vite e ce ne freghiamo di come quelle vite si ritrovano in quella situazione lì, cioè il diritto della Croce Rossa, no? In cui mi disinteresso, per dirlo banalizzando, delle parti del conflitto, non allevio le sofferenze senza occuparmi delle cause. Allora, cosa dico quando dico una crescente gestione su di carattere umanitario? Innanzitutto i dati, e qui non ho risposte, ho interrogativi, perché a fronte di questo discorso pubblico, retorico, di criminalizzazione, nel 2007 il numero delle espulsioni è in costante calo, picco. Quindi anche questo per me non è una risposta, è un punto interrogativo che noi dovremmo capire. La seconda parte cosa vuol dire? Vuol dire ad esempio l'utile, oltre a una quota crescente di rifugiati, richiedenti asilo, impiegati come manodopera a basso costo, e guardate che quello schemino che facevo prima sui decreti flussi l'ha confermato la prefetta Rosetta Scotti Lavino durante un convegno a Ragusa, in cui mi ha detto non ci servivano più i decreti flussi, arrivavano per mare. Chi arriva per mare? Arrivano anche i lavoratori, non arrivano solo i lavoratori, ma arrivano anche i lavoratori di loro e di questo loro sono super coscienti. Quindi da una parte questo, dall'altro l'umanitario è appunto quella, sostituisce quello schema per cui avevo il permesso di soggiorno, accedevo più o meno ai diritti, ero irregolare, mi espellevano o rischiavo l'espulsione, che funzionava più o meno così, a uno schema di costante contrattazione del diritto, negoziazione con l'ente gestore per avere, no, il rinnovo del permesso di soggiorno, con l'ente religioso per avere la residenza, Il permesso umanitario è un permesso di controllo. Il permesso umanitario non lo rinnovi se hai il precedente penale, cioè ha questa clausola anche di ed è altamente arbitrario. E anche qui, no? Significa questo. Allora, io sono assolutamente d'accordo con quello che veniva detto prima. Il decreto Minniti non è un punto di rottura, è un punto che è un momento di istituzionalizzazione di un percorso che in Italia stava già avvenendo. E non a caso, ora lascio perdere le questioni tecniche, però espande proprio questa zona grigia in cui io non riesco a rivendicare i miei diritti, no? Mi limita la possibilità di rivendicarli, ad esempio, sul terreno banalmente giurisdizionale. Io nell'accoglienza, cioè vi faccio un esempio banale. Due settimane fa c'hanno una donna a cui era stata revocata l'accoglienza in un CAS romano, abbiamo fatto il ricorso, abbiamo vinto in sede cautelare, cioè il TAR ci ha dato la sospensiva, questa stava in un CAS, questa peraltro aveva lei di sua spontanea volontà dichiarato che era stata fatta prostituire in strada, eccetera, eccetera. L'hanno rimessa all'accoglienza dove l'hanno rimessa a Castelnuovo di Porto. Non so se qualcuno ha idea di dove sia Castelnuovo di Porto, è un CARA, un ex CARA, 1500 persone, uomini e donne insieme, è evidentemente un provvedimento punitivo, contro cui tu non hai nessun tipo di tutela, diciamocelo. Ce l'hai di più al CIE, perché quando c'è il CIE, c'è un avvocato e un giudice, e sei più tutelato, riesci a uscire dal CIE, da dentro l'anno. Sto perdendo troppo tempo, vado più veloce. Allora, da questo punto di vista, io sono d'accordo che la legge Minniti istituzionalizza un percorso che già c'era, però appunto lo istituzionalizza, e non è un passo da poco questo. Cioè introdurre il lavoro gratuito, introdurre quello schema che è lo schema del servaggio, non è un passaggio da poco. Questa cosa la dico perché era tanto piaciuta a Paolo, e la ripeto qui, Hobbes tra i cittadini e gli schiavi in catene, chi mette i servi, qual è il servo perfetto? Colui che mi rende il suo servizio lavorativo, non in virtù di un contratto paritario o in virtù delle catene, ma in virtù del fatto che gli ho salvato la vita. Il prigioniero di guerra, quello è il servo perfetto. Noi stiamo istituzionalizzando questa roba qua, e questo è secondo me assolutamente pesante. Questo è un passaggio pesante. L'altro passaggio pesante è quello della razzializzazione. Io che in Italia la costruzione del pericolo pubblico fosse pesante e autoritaria nella dimensione, siamo un paese autoritario, quello lo sappiamo benissimo, però questa dimensione così evidente della razzializzazione io sinceramente non l'avevo mai vista. Faccio un esempio per tutti, banale, non so se alcuni di voi, sicuramente molti di voi, hanno presente il telegramma che il Ministero dell'Interno ha inviato a gennaio 2017 alle questure delle città dove erano presenti i CIE, oggi CPR, dicendo: liberate sul territorio cittadini di altre nazionalità per metterci i nigeriani e le nigeriane. Cioè davano i numeri, 50 nigeriane su Roma. Sta roba qui manco Trump la fa in questi termini così cioè siamo ben oltre il racial profiling, devo dire. Allora, dicevo, questo è uno dei pezzi che secondo me dobbiamo tenere presente e su cui riflettere. Il CIE di Ponte Galeria oggi è un CIE solo femminile e le donne al loro interno sono nigeriane, ma sono anche cinesi, sono quelle addette alla, così ci vengono rappresentate, alla soddisfazione dei bisogni biologici maschili, e questo è. Dall'altra parte abbiamo politiche evidenti di razzializzazione. La Pomardi, presidente della Commissione Territoriale di Roma, mi ha spiegato con dovizia di particolari come la Commissione Territoriale di Roma, grazie all'umanitario, abbia potuto regolarizzare un gran numero, grazie all'umanitario e grazie alla guerra in Ucraina, di badanti ucraine che, visto che non facevano più il decreto flussi, non si sapeva come regolarizzare. Anche lì una razzializzazione che è basata su idoneità al lavoro, cioè le nigeriane non vengono giustamente a fare i badanti, perché non li fanno, forse sì, ma diciamo non vengono considerate degne, però quella è la rappresentazione, non vengono considerate adeguate, abili al lavoro. Allora, anche qui l'ultima cosa che volevo dire è, tornando a quell'immagine degli uomini neri nei ghetti e la paura, e alle donne che vendono i loro corpi in cambio di denaro, che il pezzo su cui noi poco siamo portati a riflettere e che dimentichiamo quasi sempre. Ieri si parlava di sussunzione sotto il capitale di forme di produzione di valore che sono anche, mettono a valore le nostre relazioni di cooperazione sociale, questo l'abbiamo imparato, siamo noi i primi fruitori di quella brandizzazione del food, perché diciamo, cioè, siamo noi, io la mattina, ogni domenica porto i bambini a mangiare al mercato Terra del Forte. Cioè, che poi lo facciamo da una parte o dall'altra, però ce lo dobbiamo anche chiedere questo, perché altrimenti non capiamo. Ecco, dove c'è produzione c'è anche riproduzione sociale, che non vuol dire solo riproduzione della forza lavoro biologicamente intesa, ma significa riproduzione delle condizioni del capitale. Allora, detta così sembra molto difficile, un po' ce la diceva prima Irene. Quando io metto invece delle case i littendopoli, ragazzi, cioè la riproduzione banale della forza lavoro, io la sposto dal capitale a un'altra cosa, la esternalizzo, nel senso che... Allora, il decreto Minniti ha istituzionalizzato anche questa, una forma di controllo che secondo me va sempre di più dal controllo della mobilità ai mezzi di riproduzione della vita. Nei CAS, vi dico questa cosa divertente, c'è un CAS a Torre Angela a Roma, dove io sto facendo la ricerca, gestito da un'agenzia immobiliare che è andata lì per valorizzare delle palazzine, così mi hanno detto, cioè si fa anche questo è valorizzazione, perché non so se sapete che con l'accoglienza straordinaria i CAS, i bandi sono stati aperti a chiunque, cioè basta essere una SPA. Però dicevo, appunto, quello che lamentano le donne è esattamente il fatto di non poter cucinare, di non poter decidere che cosa dar da mangiare ai propri figli. Allora, questa forma di controllo, che è un controllo tipicamente, cioè le femministe ce l'hanno detto, no? Sulle forme di riproduzione della vita, io non ho una risposta qui, penso che non ci sia una risposta che valga per tutti, però anche qui ci deve interrogare, perché poi questo è un tema assolutamente desoggettivante. Allora, Piazza Indipendenza è stata questa, secondo me. Cioè, Piazza Indipendenza è stata, nei giornali è stata rappresentata come l'accoglienza fai da te. Chi conosce Piazza Indipendenza e la situazione, sa che era una, c'è Vidal che ci dice qualcosa, che era una fortissima forma di rivendicazione politica sulla possibilità di decidere come e dove vivere. Lì una delle questioni per cui le donne non si volevano spostare, che loro avevano deciso di mandare lì i figli a scuola, non nelle periferie romane. Allora, anche questa è una forma di, quella di Piazza Indipendenza, è stata una forma di produzione di conflitto molto forte proprio su questo livello rivendicativo. Non era accoglienza degna, nel senso supplisco a qualcos'altro, aveva un livello rivendicativo, secondo me, fortissimo. E proprio per questo in maniera molto forte è stata repressa. L'ultima cosa che dico, oltre a domandarci come produciamo il conflitto su questo livello, perché certo è una questione complessa, l'ha introdotto Paolo, il tema della criminalizzazione della solidarietà. Io che su questo, scusate, non sono molto polemica, sono un po' polemica perché mi piace fare così, però torno su Piazza Indipendenza. Noi ci indigniamo molto quando noi attivisti bianchi siamo il target della criminalizzazione. La prima criminalizzazione della solidarietà la subiscono i migranti. A Piazza Indipendenza, cioè alcuni, a Roma la comunità eritrea c'ha gente che si è fatta 18 mesi di galera, sono usciti a dicembre per criminalizzazione della solidarietà. Quanti dentro qui di noi la sanno questa cosa? Molto pochi, perché appunto quando sono i compagni bianchi a essere, i compagni e le compagne bianche a finire in galera, siamo tutti lì. Lì c'è un discorso pesante, su cui anche c'è un discorso ambiguo, su cui anche noi ci facciamo trascinare nell'inganno. Ma lì, cioè, questi sono accusati di traffico di esseri umani. Si chiama così. La criminalizzazione della solidarietà ha un nome giuridico che si chiama traffico di esseri umani. Allora, cioè, o questa cosa noi la capiamo e anche qui se ci sarebbe molto da discutere, ma si chiama così, la capiamo e ci sarebbe da discutere, perché ad esempio lì era stato fatto in sede penale tutto l'apparato accusatorio era costruito attorno alla retorica dei transitanti, che è stata anche una retorica nostra, quella dei transitanti, perché tutto l'apparato accusatorio era costruito sulla base del fatto che le condotte in Italia, con cui si dava una mano ad arrivare da una parte all'altra, erano condotte di transito verso altri paesi. Marocco, che è un paese di transito da molti anni, c'è una fortissima critica alla retorica dei transitanti, forse anche noi dovremmo un attimo pensarci. Qui chiudo, ciao. Lascio spazio agli interventi, dato che non so voglio di riparlare io. Avete lo sport, ricordatevi il 8 marzo. Grazie per Ops. Ah, ricordiamoci l'8 marzo. Rompo il ghiaccio io. No, due questioni sulla retorica, perché secondo me il passaggio oggi, 8 anni fa, oggi, anche se un po' più di anni fa, in effetti ci fa vedere alcune cose. Volevo rimarcarle semplicemente, non sono vere e proprie domande. Scompare il lavoro, ma tra l'altro non scompare nell'ambito migratorio, scompare completamente da qualunque ambito politico e, ripeto, questa campagna elettorale ne è l'emblema, non se ne è parlato, si è parlato di tutt'altre cose. E quindi scompare il lavoro connesso al tema della migrazione nella sua forma razzializzata, soprattutto, come abbiamo detto. Però l'abbiamo detto in queste giornate, il potere, questa ondata repressiva, semplicemente non è che annichilisce l'esistente, ma produce. Cos'è che produce? La vittima, che è un'immagine, un soggetto assolutamente pericoloso, è un'identità pericolosissima da vestire, perché la vittima per definizione non si muove, non ha possibilità di azione, non ha possibilità di intervento. Non sapevo questo aneddoto riferito alle donne dall'Ucraina, ma mi sembra molto sintomatico, perché proprio nel campo dell'assistente familiari ci sono state nel passato delle lotte sul lavoro, sono stati creati probabilmente dei contratti nazionali anche abbastanza significativi e dirompenti per il sistema, perché appunto si è fatto esistere un lavoro che prima non esisteva e si è imposto un'esigenza di un contratto per normare alcuni comportamenti che tra l'altro nelle case in cui si lavora sono anche dovevano essere codificati. Sparisce questo elemento del lavoro e appare la vittima. Giustamente il paradigma umanitario impone che, grazie finalmente a questa, alla situazione problematica in Ucraina, possiamo riconoscere come richiedente asilo, suppongo, le donne che arrivano dall'Ucraina. E come passaggio mi sembra abbastanza che evidenzi maggiormente il fatto che scompare completamente una tematica. L'altra questione, sulla questione della repressione, ok, la repressione viene, le forme di conflitto vengono colpite con durissima forza, scompare, tra virgolette, il conflitto dalle tematiche, appare un altro tema, con una parola che consente a molti di produrre lotte, ma che è problematica, su cui forse ritorneremo nel corso della giornata. La parola solidarietà in Italia è problematica. Condurre lotte di solidarietà, per quanto tutte l'abbiamo fatto, senza mettere a critica questa parola e tutto quello che c'è dietro, e dietro c'è l'assistenzialismo, e l'abbiamo detto ieri, l'assistenzialismo e il controllo vanno sempre di pari passo, proporre la solidarietà, come tra l'altro ho fatto io stesso nell'introduzione, senza problematizzarla è molto problematico, anche perché, a proposito di riproduzione, la solidarietà non problematizzata riproduce il paternalismo. Paternalismo nei confronti dei migranti, su una linea di genere, paternalismo in generale rispetto ai migranti trattati come vittime che non hanno la possibilità di eccetera eccetera eccetera, che non hanno possibilità di azione. In questo senso far diventare le persone delle vittime loro malgrado è un esercizio anche narrativo estremamente violento, e anzi, grazie al meno male che oggi stiamo comunque puntando anche l'accento sulle resistenze. Non ho fatto delle domande. Velocissima sulla solidarietà, io penso che sia necessario però riappropriarsi del senso di che cos'è solidarietà, proprio perché, cioè, ha una storia appunto che è quella della lotta di classe, la solidarietà, e quindi, cioè, nel momento in cui diventa paternalismo e vittimizzazione, dal mio punto di vista cessa di essere solidarietà, no? Quindi, cioè, non, farei attenzione a non confondere questi due piani, no? Perché altrimenti si rischia di dire allora c'è, alla fine se non, diciamo, se le persone non prendono in mano la situazione, non si organizzano autonomamente senza, no, nessun tipo di sostegno esterno, allora noi non possiamo in alcun modo intervenire, perché altrimenti sarebbe paternalismo, sarebbe, cioè, ci sono dei modi di portare solidarietà che non sono, appunto, cioè, per definizione non sono paternalisti e non sono, no, cioè, appunto, il mutualismo, che quindi è, cioè, diciamo, fondato poi su un concetto che è quello del conflitto e della lotta, non quello del ti vengo, diciamo, a dare il pane, oppure, cioè, ti, nemmeno ovviamente ti insegno come si fa la lotta, no? Cioè, questo è un problema, però appunto, cioè, dal mio punto di vista la solidarietà dovrebbe essere distinta. Ciao. Volevo ringraziare intanto le persone intervenute perché hanno aperto un po' il campo a quello che spero saranno un po' i temi che approfondiremo oggi, quindi in particolare quello degli, diciamo degli strumenti di repressione, che diciamo che mi è venuto in mente un po' di cose di cui parlavamo negli scorsi giorni. Per esempio venerdì si parlava del DASP, del mini DASP, del decreto Minniti, come strumenti che, diciamo, non hanno come fine l'allontanamento, al contrario di come si presentano, ma proprio quello del controllo del movimento. E naturalmente insomma, il pensiero va subito ai provvedimenti di espulsione che adesso sempre più stanno avendo un ruolo fondamentale nelle politiche di controllo della migrazione. Quindi appunto dei CIE che fin dalla loro istituzione non hanno mai avuto, diciamo, la funzione di effettivamente espellere le persone, perché poi anche i numeri, le percentuali dicono che questo non si è mai verificato, ma solo quello appunto di controllare i movimenti delle persone. Quindi ecco, insomma, giusto questo collegamento che secondo me evidenzia ancora di più quanto la lotta delle migranti all'interno dei CIE, ma non solo dei CIE, all'interno di tutti i centri di accoglienza, nei ghetti e nei campi, debba per forza essere la nostra lotta, e non appunto perché dobbiamo, insomma, intitolarci in qualche tipo di, non so, resistenza in nome di qualcuno, ma perché ci riguarda in prima persona. E poi appunto l'altro argomento che è stato introdotto, che di cui si parlava anche ieri, è quello delle pratiche di resistenza, che spero appunto che potremo approfondire oggi. Simone parlava della pratica di occupare le case, e anche ieri quando si parlava rispetto alla gentrificazione e si cercava di capire insieme cosa mettere in campo per resistere, mi sembra di ricordare che la risposta più concreta che è venuta fuori è stata esattamente la stessa, e quindi penso che sia utile utilizzare anche questo tema, quello appunto dell'emergenza case, come anche filo conduttore che può servire spesso per unire le lotte, visto che poi appunto questo era anche un po' l'intento della tre giorni. Quindi insomma, un paio di spunti su cui spero continuo a ragionare, perché sono interessanti. Scusa, cioè, la lotta dei migrati non è solo tanto dentro le CIE. Cioè, se guardiamo la compagnia Unita Roma, il movimento Lotta per la Casa, la Corco della Madonna, hanno 98 sono le prime. Scusa, la usata stelle. La logistica, sto dentro, la pressione è troppo alto, sono 95% sono migrati. A nord, per il sud si cambia la faccia dei lavoratori, entrano degli italiani, di ucri, cioè, migrati. Cioè, dipende da un territorio all'altro. Se si riesce a connessere tutti quanti, va bene, ma se no, se noi guardiamo solo che noi diciamo l'immigrato, quella che c'ha nel campo di concentramento, che sa della CIA, che ce l'ha in Italia 7 milioni di lavoratori immigrati, tra virgolette, che sono quella del Ministero dell'Interno che hanno permesso, sono 7 milioni. non è solo uno. Colpa del freddo? Giusto per non far cadere l'ultimo intervento, a me è piaciuto molto quello che dal mio punto di vista personale mi ha, diciamo, arricchito di più, perché era la cosa che conoscevo di meno in partenza. E, una domanda un po' magari sciocca, e come è possibile, se è possibile fare delle previsioni su cosa sarà prossimamente rispetto a la questione dei flussi, quindi la questione dell'assorbimento della forza lavoro, in un momento in cui il quadro sta cambiando soprattutto al di fuori dell'Italia, perché no, c'è stato un processo pesante di esternalizzazione delle frontiere, e quindi io personalmente ho la sensazione che il quadro di cui spesso parliamo in contesti come questo, cioè intanto parliamo molto di accoglienza proprio, e sono d'accordo con l'intervento di Nabil, nel senso che poi ci sono, fatichiamo a vedere quali sono i veri grandi numeri, e vorrei sapere se tra, insomma, tutti quelli che sono intervenuti ci sono, diciamo, delle ipotesi, dei ragionamenti su cosa sta avvenendo e come si modifica il quadro rispetto alla questione dell'arrivo, diciamo, della modificazione della forza lavoro in Europa in conseguenza del progressivo blocco e spostamento delle frontiere che è in corso attorno all'Europa e soprattutto in Africa. No, allora ti ringrazio, e peraltro questa cosa mi dà alcuni spunti per chiarire delle questioni che prima ho buttato là e che magari mi interessava anche con Nabil e Irene, Simone, con Paolo, tutti quelli che sono qui, no? Cioè, qual è la previsione? Scusa, qual è la previsione? Allora, io sono d'accordo con quello che diceva prima Nabil, che dobbiamo andare indietro alla Bossi-Fini, eccetera. Però è vero, e tu lo dimostri, lei l'ha dimostrato con il caso delle rumene, è vero che ci siamo sempre mobilitati per i documenti, però è vero che i documenti oggi ti garantiscono veramente poco. Cioè, anche Irene mi diceva bene prima, paradossalmente i lavoratori e le lavoratrici rumene, che sono addirittura cittadini, stanno sotto, cioè anche in termini banalmente di paghe, cioè la questione è complessa, il cottimo, ma ti dà molto di più di quanto ti dà la paga sindacale, che nei campi sono, ci arrivi a di più, cioè sui 40 euro se ti spacchi la schiena riesci ad arrivare invece anche a 60-70 con il cotto, cioè quindi ci sono delle cose complesse, e questo sicuramente, no, ci interroga, perché mentre prima ci mobilitavamo per il permesso di soggiorno, è vero che oggi continuiamo a mobilitarci per il permesso di soggiorno sapendo che ci serve poco meno, e questa, vabbè, era anche una domanda che faccio. La seconda, dove andiamo, no? Anche quando io ho iniziato questa riflessione sulla questione dell'umanitario e questa cosa che dicevamo, perché se uno va a vedere i dati è vero, sì, espellono meno, le espulsioni in senso sia di deportazione ma sia anche di quelle amministrative, no? c'è questa enorme zona grigia. Cosa succede dopo la crisi? A parte che sono 8 anni che c'è questa crisi, quindi oramai è uno stato di fatto, dovremmo cambiare il nome, eccetera. Io quello che comincio a vedere sempre più spesso, ad esempio quei diniegati, che ormai in Italia sta diventando, sono situazioni paradossali ma non isolate, in cui tu hai la gente che lavora con un contratto regolare e gli è scaduto il permesso di soggiorno e c'è una nuova forma di ricatto, perché cosa fai? Vai avanti così, non puoi chiedere al datore di lavoro di regolarizzarti, non puoi chiedere di fare niente, ma va, il datore di lavoro ha culo parato sotto ogni fronte, perché sei in regola, c'è il tuo contratto e tu lavori in questo limbo di non diritti assoluti senza avere più il permesso di soggiorno. L'INPS banalmente non incrocia i dati, giustamente, non sono certo io che glielo vado a dire, però questa situazione cioè io la vedo sempre più estesa. A Roma lo vedo dalla logistica, la vedo nella logistica, la vedo nelle lavanderie, la vedo eccetera. Allora anche lì mi chiedo, questo non funzionare della macchina è appunto un mancato funzionamento o è la macchina funziona su questi meccanismi di appunto di cortocircuito, forse anche voluti eccetera, non che ci sia una risposta per tutto. Sulla Libia le rotte cambiano di continuo, cioè questo, ecco, questa è l'altra cosa, la gente giustamente non si ferma, ma anche perché le rotte, peraltro anche qui, noi siamo sempre destoricizzati completamente, come se sta roba arrivasse dal nulla, e le rotte che usano i migranti sono quelle che usavano i pescatori, cioè sono e cambiano, sono, poi per carità questo non vuol dire che non ci sia la repressione c'è fortissima, forse però appunto dire parole chiare sul non vogliamo l'intervento umanitario che li riporta indietro, giustificato da liberarli dai cattivi trafficanti, o non vogliamo la relocation, perché per me comunque di deportazione e di spostamenti forzati di popolazione si tratta, anche lì usiamo la parola solidarietà, cioè ecco un po' cominciare a dire in questa confusione delle cose un po' più chiare su questo sarebbe male. Allora, sulla questione, diciamo, della mutazione dei flussi mi sembra un ragionamento interessante, perché secondo me, cioè, allora, guardando al tipo di manodopera di cui necessita il comparto agroindustriale in questo momento, cioè si tratta di una manodopera a bassissima specializzazione che necessita di un altissimo turnover, no? Nel senso, cioè, si tende a spremere il lavoratore e la lavoratrice e poi a gettarlo, no? Quindi appunto anche per questo parlare di schiavitù è folle, nel senso che lo schiavo, diciamo, deve essere mantenuto, diciamo, in salute perché è proprietà di chi lo possiede, no? Quindi non conviene, diciamo, qui c'è una possibilità con il lavoro salariato senza alcun tipo di garanzia di appunto spremere le persone come dei limoni e poi buttarle. Quindi questa produzione just in time anche di forza lavoro si serve probabilmente, non lo so, la butto lì, però c'è, cioè, di strategie, diciamo, anche queste just in time, nel senso da una parte i rumeni, no? Cioè dei paesini più sfigati, quelli che fino al 2007 non si potevano permettere di uscire dalla Romania, e quindi, cioè, accettano le condizioni più disperate di lavoro in Italia, sono quelli che non possono nemmeno pagarsi il biglietto per andare a lavorare in Spagna o in Germania, Germania, dove trovano delle condizioni di lavoro migliori e quindi si devono affidare all'intermediario che gli anticipa i soldi del viaggio, gli anticipa il vitto e l'alloggio, da cui poi gli scalano la paga, quindi alla fine della stagione di lavoro ti rientrano 200-300 euro che poi ti servono per sopravvivere in Romania durante il resto dell'anno. Questo, i flussi migratori appunto dalla Libia o le altre rotte, cioè mi sembra che la strategia sia di mantenere a livello globale quelle condizioni di precarietà ad assetto variabile, che poi si spostano appunto a seconda del momento, ma che ti permettono di avere sempre a disposizione un pool di manodopera a basso costo che continuamente va a sostituire quelli che sono già stati spesi e spremuti. Rispetto all'utilità del permesso di soggiorno, appunto, è ovvio che il permesso di soggiorno non risolve nulla, ancora di meno appunto oggi pensiamo tra l'altro appunto a dei contratti come quelli a tempo determinato in agricoltura, che sono contratti a zero ore, quindi essenzialmente che non danno nessun tipo di garanzia in ogni caso, che non permettono nemmeno ai controlli istituzionali di poter essere efficaci in questo senso, perché il padrone si può sempre trincerare dietro la scusa ma questo era il primo giorno che stavo a lavorare, quindi l'ingaggio te lo faccio sempre ma poi non ti verso i contributi e questo mi permette di continuare indisturbato a fare quello che facevo prima senza i contratti. D'altra parte però anche che c'è senza il permesso di soggiorno, io il contratto proprio me lo scordo, e quindi la rivendicazione sul lavoro appunto per questo, i lavoratori e le lavoratrici con cui noi facciamo le lotte partono dalla questione del permesso di soggiorno, perché sono assolutamente consapevoli che senza di quello non ci si può neanche immaginare come poter portare avanti una lotta sulla questione del lavoro, dove poi appunto la cosa diventa complessa, quindi ci si concentra per il momento su quello che diceva Simone, cioè su quello che si potrebbe definire il salario indiretto, no? Cioè, poi le conquiste delle lotte bracciantili hanno portato ad un diritto che ormai è soltanto sulla carta, al vitto, all'alloggio e al trasporto per chi lavora come bracciante stagionale, ecco, piuttosto che sul salario, dove la rivendicazione, sì, pagato dal datore di lavoro, dove ovviamente la rivendicazione sul salario è più complessa per tutta una serie di fattori, quella sul salario indiretto, che casomai quello che noi andiamo dicendo non è il singolo padrone di azienda mi deve dare la casa e il trasporto, ma l'organizzazione di categoria, quindi c'è chi veramente tiene i cordoni della borsa mi deve garantire questo, almeno c'è lo Stato con i fondi europei sull'emergenza, perché poi appunto c'è le tendop che si fanno con i PON sicurezza, no? Cioè quindi con appunto anche spendendo denaro pubblico che volendo, no? Aderire a quel tipo di discorso dovrebbe essere speso per tutt'altro, tra l'altro, quindi rispetto al futuro dei flussi, un'ultima battuta, perché abbiamo avuto la sfortuna di parlare con il capo di gabinetto del Ministero dell'Interno di recente, che sosteneva appunto, così anche un po' a battuta, durante un presidio a Foggia, vi ricorderete quest'estate ci fu questo omicidio di mafia in cui morirono due persone che capitavano lì per caso, quindi il ministro Minniti da allora regala la sua presenza a Foggia e il braccio pugno di ferro dello Stato sempre di più in quel territorio che ha proprio delle caratteristiche di brutalità e abbandono assolutamente significative. Però ecco, Mario Morcone a battuta diceva: forse per voi Minniti è soltanto un fascista, ma quello che lui sta cercando di fare in questo momento è di fermare i flussi dalla Libia per poi regolarizzare gli arrivi, no? Questa è un po' la retorica istituzionale, non soltanto credo del Ministero dell'Interno e del Governo italiano, ma anche dell'Unione Europea, perché questo è quello che si sente dire da un po', anche Juncker credo abbia detto. Poi a livello europeo ovviamente non è molto, insomma, ancora non, a me non è chiaro perlomeno dove vada, in che direzione vada, oltre diciamo alla questione dell'esternalizzazione, cioè, però sembra esserci una cioè, sembra che si rivolga l'attenzione essenzialmente soltanto sui lavoratori altamente specializzati, no? Quella politica europea ufficiale si vuole occupare soltanto di tenere fuori i poveracci e fare arrivare appunto lavoro specializzato, casomai abbassando anche i costi di quel lavoro, però ovviamente, cioè, dietro a tutto questo sta quello da cui partivo, cioè il fatto che in realtà appunto poi, cioè, di lavoro estremamente precario e precarizzato c'è assoluta necessità, si usano, diciamo, strategie più o meno, diciamo, nascoste per poterlo sfruttare. Possibilità di ragionare, no? Tu dicevi le politiche europee, e anche qui secondo me c'è un cambio di passo su cui dovremmo ragionare, cioè il Compact, il Migration Compact, sono vere e proprie politiche coloniali, neocoloniali. Cioè, quello che prima era una retorica di flussi controllati in cambio di processi di democraticizzazione, cioè davo gli aiuti ai paesi che mi aiutavano nel controllo dei flussi in cambio anche di processi di democraticizzazione. Retorica, però almeno c'aveva questa copertura retorica, le retoriche non sono d'accordo. I famosi Migration Compact ci siamo dati noi, cioè il sì, però noi italiani, nel senso, abbiamo avuto una loro, la Renzi su questo ha fatto la prepista, funziona come garanzia agli investimenti privati delle piccole e medie imprese in quei paesi. Questo è, cioè, è proprio colonialismo estrattivo allo stato puro, dove peraltro c'è già la forza lavoro in loco, cioè fondi di garanzia, cioè funziona in questa maniera qua. Ora, io non sono un economista e, diciamo, oltre questo il mio livello di riflessione non sa andare. Però anche questo è un cambio di passo su cui, secondo me, dobbiamo ragionare. Cioè, nel senso che mentre prima l'Europa si... Beh, non è che possiamo ragionare di tutto oggi qui, però mentre prima l'Europa si muoveva su un livello istituzionale europeo, peraltro, la questione dei compact rinazionalizza i rapporti, cioè quello che succede che è successo tra Italia e Francia sulla Libia e poi obiettivo ulteriore Niger, cioè vado in Niger, porto lì i miei soldati, controllo le risorse, eccetera. Quindi da una parte rinazionalizza, dall'altra parte dice mano libera alle imprese rispetto agli investimenti e in cambio che ti porto gli investimenti privati tu mi blocchi i flussi. E anche questo secondo me è un cambio di passo pesante da questo punto di vista. Si blocca i flussi, da cedere il voto. Ricevere e ricevere il ritorno all'espulsione, certo. Vabbè, questo era sempre il suo dato per Io non, cioè, mi agganciavo sulla domanda di Fabiano per parlare di prospettive, ma volevo più parlare di prospettive di lotta in realtà, perché su cosa succederà è sempre abbastanza, penso, complesso, e bisogna anche, secondo me, a un certo punto porsi davvero in un'ottica che esca dall'emergenza in cui ci costringono. E E quindi mi riaggancio anche a quello che aveva detto Rosa durante il suo intervento. Noi pensiamo come Rete Campagnelotta che per vincere, che sarebbe comunque una prospettiva interessante, credo, quello che è necessario, ed è anche la questione della solidarietà, ma di una solidarietà reale che parte dalle lotte, si debba fare della ricomposizione che passa effettivamente da delle rivendicazioni chiave come può essere quella della casa, che effettivamente mette in comune tutta una serie di soggetti, e quindi la casa vuol dire anche riprendersela, occupare evidentemente, e quindi ancora rifiutare sia il centro d'accoglienza che le baraccopoli e far qualcosa in questo senso, quindi riuscire a riappropriarsene, e allo stesso tempo nel caso specifico del settore agroindustriale pensiamo che sia indispensabile riuscire a fare una lotta su tutta la filiera, perché ci sono a ogni passaggio verso il vertice della filiera agroindustriale delle categorie super sfruttate, che sia il camionista, che sia il facchino, e quindi lì effettivamente ci sarebbe da fare della solidarietà che passa da una messa in comunicazione e da lotte che diventino sempre più rappresentative di questi vari soggetti sfruttati. E allo stesso tempo un altro punto che secondo noi va allargato è la questione delle lotte nei centri, che non sono solo appunto i CPT ma sono anche i centri d'accoglienza. Sulla questione dei centri d'accoglienza alcune compagne hanno fatto una micro rivista di cui sta per uscire il secondo numero, che si chiama Fuori Controllo, che è semplicemente, vuole essere un punto di partenza. Si sono solamente delle dichiarazioni, delle interviste e dei comunicati di lotte in centri d'accoglienza sparse nella penisola da parte delle persone che conducevano queste lotte. Poi noi non l'abbiamo stampato perché per mettere, perché poi le lotte nei centri di accoglienza sono pratiche quotidiane, costanti, no? E quindi il problema è non organizzare le lotte singole, ma appunto metterle in comunicazione e dargli un risalto, una voce diversa da quella che hanno al momento, che è appunto essenzialmente quella delle cronache locali, dei giornali e poco più, ecco. Allora, per chi vuole, qui c'è pranzo vegetariano vegano, fatto da noi che abbiamo organizzato.